Wall Street, i viaggi del lupo. E ci siamo anche questa sera con Wolf Trips. Oggi è il 30 marzo, siamo già al penultimo giorno di marzo. Oggi abbiamo una bella puntata carica, e con me abbiamo Tony e la Cree, che la vedo presa a fare non so cosa. No, perché questo computer segna il 14 marzo. No, siamo al 30, domani è il 31, oggi siamo, siamo quasi alla vigilia anche delle feste, quindi ci siamo. Queste lunghissime feste. Si aprono le uova di Pasqua. Sì, infatti, infatti. Solo per le uova. Infatti. E stasera abbiamo anche con noi gli ospiti che avevamo già avuto l'anno scorso, che sono i Murmurmori. Ciao. Stasera ci venite a presentare il vostro nuovo album, sì, giusto? Che esce stanotte. Stanotte. Sì, wow. Io quello che avete presentato l'altra volta, giuro che me lo sto ascoltando in macchina. Ma questo lo troverai nell'uovo di Pasqua, vedrai che... Sì. Così almeno rinnoviamo. Vabbè, facciamo subito una presentazione allora dell'album, il titolo, qualche informazione così proprio veloce. Allora, dunque, questo nuovo album si chiama La morte dell'unicorno. Sì. E comprende delle tracce che, rispetto al vecchio disco che era Radici, dove avevamo musicato fiabe e leggende tradizionali italiane, questo è un disco un pochettino più libero, diciamo. Ci sono all'interno brani che vanno da canzoni che noi abbiamo riproposto, ma che esistevano già, tipo una canzone che è del 1300 che si chiama Hai visto l'Olop, e altre canzoni chiaramente scritte da noi, dove però come tema abbiamo deciso di prendere dei problemi o comunque delle tematiche che esistevano già in tempi antichi, come per esempio tempi medievali, e riportarle ad oggi. Quindi, diciamo, fare una sorta di parallelo tra i problemi di un tempo e i problemi di oggi, rendendoci così conto che in realtà non è cambiato poi molto. Forse è cambiato un po' il modo di affrontarli, questi problemi. Se prima si affrontavano in una maniera più di petto, ad oggi forse magari ci si è un pochettino più rammolliti, vuoi un po' per i social network, vuoi un po' per lo stile di vita, ma questi problemi vengono affrontati in una maniera forse un pochettino più discutibile. E i brani sono quindi abbastanza slegati tra di loro, cioè si passa da brani estremamente veloci a brani estremamente più rilassati, più calmi, dilatati, rispetto al vecchio disco Radici, dove si ha più o meno sempre lo stesso andamento. Posso parlare già del primo brano? Dai, ascoltiamo il primo brano, sì. No, volevo dire, quindi è vera la storia che... Cioè, la storia, nel senso, la questione è che la storia si ripete, no? Sì, chiaramente. Quindi avete proprio ripreso questo concetto. Speriamo che anche questa volta, se la storia è fedele al suo andamento, dopo un periodo del genere si possa avere un rinascimento. Infatti. Speriamo che noi di uscire dal Medioevo in modo veloce. E la prima traccia che abbiamo inserito si chiama Lo schiavo fuggiasco. Ed è un brano che è stato ispirato da un libro scritto da Paolo Diacono, la storia dei Longobardi, sostanzialmente. Lì c'è una leggenda all'interno che ci ha colpito un sacco, perché parla di come un suo avo è riuscito, reso schiavo da il popolo che aveva invaso il nord Italia in quel periodo, riesce a ritornare appunto dall'altra parte delle Alpi, quindi in Italia, grazie all'aiuto di un lupo che lo guida attraverso i passi montani alpini che lui non conosceva, in quanto si ritrova dall'altro lato. E la cosa che ci ha colpito è il fatto che sostanzialmente in questi tempi si è parlato veramente tanto della reintroduzione del lupo, e il fatto che è della caccia. Poi siamo al lupo solitario, quindi come non parlare? Me ne sono reso conto ora mentre lo dicevo. Sì, ma la battuta la dovevo fare io. Sì, te l'ha fregata. Fatto sta che comunque... Ma comunque è vero che adesso stanno tornando i lupi, sì, quindi... E secondo me gli umani, diciamo che non hanno un'informazione ancora corretta per potersi rapportare con questa specie, che di base ha lo stesso identico diritto nostro di abitare la Terra. Cioè non è che l'uomo è il padrone, gli esseri umani... Assolutamente, anzi... E quindi, diciamo, il modo in cui si sono rapportati i tempi di Paolo Diacono con questo lupo ci ha un po' colpito, perché tutto sommato alla fine forse c'era un attimino più di apertura mentale, cioè c'era più uguaglianza tra gli uomini e gli animali. Cioè basti pensare che nel Medioevo, comunque piccola parentesi, gli animali venivano processati esattamente come gli esseri umani. Questa è una cosa che a me fa impazzire, in quanto immaginatevi, ci sono casi in cui per esempio una scrofa aveva morsicato un bambino e prima di uccidere la scrofa, come si sarebbe fatto oggi, l'hanno fatto un processo. Quindi immaginatevi l'avvocato della scrofa nel Medioevo che difende chiaramente. Cioè, è un mondo incredibile. In questi giorni abbiamo visto che un processo per una melanzana rubata è durato 9 anni. Davvero? In Puglia, sì. Una roba allucinante. Però la melanzana non ha avuto diritto di avvocati. No. Questo va detto. E comunque niente, lo schiavo fuggiasco lo farei partire a questo punto. Ok, andiamo ad ascoltare quindi il primo brano, che è lo schiavo fuggiasco. Thank you. Bella, bella come sempre, complimenti. Grazie. Veramente, grazie. Mi piace un sacco. Grazie. Ma voi tra l'altro dicevate prima che venite da un concerto. Da ieri sera, sì, siamo appena tornati freschi freschi da Gabicce Mare. È stata una serata veramente divertente. Abbiamo conosciuto un sacco di gente meravigliosa. Poi è stato uno di quei concerti che è terminato con una bella chiacchierata con le persone e ognuno aveva da dire la sua sui brani, noi poi ne parlavamo. Insomma, è bello quando, soprattutto nella musica folk, c'è un riscontro. Sì, perché alla fine cioè, deve parlare, deve far parlare, quindi non deve essere una cosa asettica dove c'è un muro, no? Già il fatto di stesso che ieri ci fosse un palco di 10 centimetri già mi dava fastidio, perché cioè, fosse per me vorrei proprio cioè, stare in mezzo alle persone, poter anzi avere degli interventi. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma tra l'altro, sì, avevo visto forse qualche vostro concerto. Più vicino? No, qualche vostro concerto. Dove... Ah, scusa. Diciamo, ho visto qualche vostra foto dove state suonando seduti su delle sedie e in mezzo c'era della gente, o no? Forse ho visto qualche foto. È probabile. Ma considera... Ah sì, era l'XM a Bologna. Sì, sì, sì, sì, sì. Lì è stato un contesto, lì anche lì è stato molto interessante, che mi hanno anche proprio fatto delle domande specifiche. Sì. È la cosa più bella quella, perché comunque ti dà la possibilità di magari dare delle informazioni che altrimenti non daresti, perché sai... Quando c'è così tanto contenuto all'interno delle canzoni hai sempre un po' paura di risultare, di dilungarti troppo nelle informazioni. Quindi se addirittura ti danno la possibilità di farlo... Hai voglia, sì, sì, sì, sì, ti danno corda. Il prossimo brano qual è? Ballo tradizionale, sì, giusto? Sì, su questo brano in realtà c'è poco da dire, perché è una melodia che noi abbiamo semplicemente riproposto, in quanto è un antico ballo diffuso in tutta Italia, è un ballo strumentale. Noi abbiamo preso la melodia e l'abbiamo... reinterpretata un minimo, però di base volevamo semplicemente riportare un po' fuori dal passato questa ritmica, questa, ed è un ballo popolare sostanzialmente. Ok, ok. Tra l'altro, no, prego, prego. Io poi volevo fare una domanda, perché voi vi conoscete già tra di voi. Sì. Da che dove prendete le fonti delle vostre canzoni? Oh, guarda, allora ci sono 1300, cioè. Sì, no. Sì, no, beh, considera che qui potrei la faccio breve, cioè sostanzialmente io ho questa passione per il Medioevo da che ho memoria, cioè nel senso ne ho passate di tutti i colori musicalmente, dal punk fino al rock fino alla musica elettronica, però c'è stata questa costante nella mia vita, quindi cioè in realtà non saprei risponderti specificatamente, perché sono quelle cose che ti porti dentro da sempre. Poi le ricerche principalmente arrivano anche da altre informazioni che arrivano da altri artisti dei quali noi abbiamo grande stima, per esempio non so, ensemble come quello di Jordi Savall piuttosto che, e quindi noi di conseguenza andiamo a vedere attraverso loro quali sono le fonti per poi cercare di capire se si possono reinterpretare, adattare al nostro... Ma c'è un registro proprio dove ci sono tutte queste canzoni, cioè un archivio storico per l'Italia, cioè che è bello. Purtroppo no, ci sono dei manoscritti dove sono contenute delle bozze, perché comunque nel Medioevo la musica veniva riportata non come siamo abituati a pensarla noi, estremamente tagliata, cioè veniva riportato il motivetto, perché si dava per scontato che chi suonasse avesse solo bisogno di una traccia, poi le canzoni erano di dominio pubblico, tutti le conoscevano, quindi c'era bisogno solamente di avere una vaga traccia dalla quale partire. Poi dopo si... Maledetta SIAE. Basta, veramente, guarda. Pensa la SIAE all'epoca. Sì, beh. No, beh. C'era? No. Però secondo me c'era qualcosa di simile. Ma se ci fosse stata l'avrebbero probabilmente lavata nel sangue. No, ma si suonava liberi per strada. Adesso sì, se sì, lo fai sì. Arrivano a dire no, non potevi fare l'evento perché dovevi pagarci. E meno male che lo chiamavano Medioevo. Anzi, lo vero? Chiamavano. È una cosa, sì, beh... È tutta un'invenzione dei moderni, loro rivedere stessi, questa sì, cosa. Non erano utilizzati, siamo medievali, no, non era così, anzi è tutta una baggianata moderna. Comunque, ballo tradizionale. Tu avevi qualcosa da dire? Continuiamo a interromperti. Tra l'altro volevo ricordare che voi dove scrivete, scrivete in mezzo alla natura, giusto? Sì, cioè sì, i vostri brani, come avevate detto l'altra volta, sono... ideati in mezzo alla natura. Sì, vengono, infatti dopo c'è proprio un brano che è una registrazione dentro la quale si sentono, oltre che la chitarra, si sentono proprio i suoni che c'erano intorno in quel momento, e abbiamo deciso di lasciarla così, perché cioè, a un certo punto c'erano gli uccellini che duettavano proprio. E allora lì abbiamo dovete detto: pagarli, dovete pagarli, dovete pagarli. Agli uccellini bisogna prendere uno a uno. Sì, come ci arriviamo dopo? Perché sicuramente va bene, è una va cosa bene. Che mi allora andiamo molto ad ascoltare Ballo sì. Tradizionale, che è la seconda traccia sì. dell'album. Molto bello anche questo brano. Poi io vorrei presentare, vabbè, la mascotte, la mascotte del vostro. Beh, ma lui ha fatto, credo che sia il cane che ha fatto più concerti della storia. Che fortunato, ne? Anche l'anno scorso c'era qui, sì, sì, sì, sì, me lo ricordo, me lo Sirio. Ricordo. Tra l'altro c'è anche un brano in Radici dedicato a lui. Sì, l'abbiamo sentito l'anno scorso, l'avevamo messo, sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Tra l'altro vi saluta mia sorella che aveva fatto le foto, mi ha detto di salutarvi, quindi riporto il saluto. Tra l'altro lui viene a ogni vostro concerto. Dove è possibile sì, dove è possibile quasi sì. Sempre. Perché no, beh, noi cerchiamo sempre di portarlo, sì. Poi però ci sono dei contesti dove comunque vuoi, cioè per esempio il prossimo concerto che faremo sarà a Bresso, no? E sarà all'interno di un festival dove ci saranno anche band amplificate che fanno metal e black metal, e lì mai lo porterei, ma non perché non voglio, ma per il fatto che sarebbe... Per rumore. Sarebbe da stronzi, scusate, cioè no. Nel senso non gli vuoi bene, esatto. Mentre invece noi suonando sempre in acustico, lui sostanzialmente ormai ha imparato che quando io prendo la chitarra lui dorme. Quindi cioè che siamo in casa, che siamo davanti a 50 persone, per lui è la stessa cosa. Infatti adesso sono andato a pescare, ma era lì sul divanetto che dormiva. È vero? Beh, era tranquillo. Senza chitarra. Sì, sì, sì. Vuol dire che era tranquillo. Sì, sì, sì. Lo rimettiamo al suo posto. Lo lasciamo dormire. Vabbè, allora vi lascio introdurre il prossimo brano. Sì. Bene, sì, La caccia selvaggia. Tema mitologico che si fa risalire all'Europa, dove c'è questa caccia che si svolge in cielo o in un bosco, molto violenta, nella quale imbattersi è abbastanza pericoloso e si perdono un po' indietro nel tempo le informazioni in merito, quindi non si sa bene a quando risalga questo tema. Però nella caccia ci sono cani, cavalli, anime dannate, anime di defunti, giganti. Caspita. Sì, e talvolta la caccia selvaggia è capitanata anche da una figura carismatica, celebre, e questo dipende dalla zona in cui affiora il mito. Però appunto, per esempio, in Francia viene di solito, in Francia viene di solito capitanata da Carlo Magno, questa sì, è la leggenda, piuttosto che la versione germanica è Odino, sì. Quindi dipende dal territorio. Noi in Italia siamo stati invasi da tutti, è un po' Carlo Magno, un po' Odino. E Diana, nessuno, diciamo... Diana, la dea della caccia? Lei invece l'ha, no? Un po' persa, ma perché probabilmente lei è più vecchia della leggenda. Cioè deve essere più una leggenda che è nata greca, nell'alto medioevo, sì, piuttosto che nel periodo classico, no? E quindi qui, insomma, in questa canzone noi abbiamo preso un po' il testo, chiaramente scritto da Silvia, l'abbiamo un po'... non siamo entrati nei dettagli perché di una cosa perché del non genere non ce ne sono, non si può entrare. ok sono varianti. Ma prima di ascoltare il brano, poi dopo lasciamo spazio al pezzo, ma la grafica del bravissimo che ho visto, diciamo l'immagine, quella che hai fatto per sì, che ha prodotto lui per l'evento, sì, no? Di stasera è molto bella, cioè voglio capire un po' da dove le prendete, chi le cura. Vabbè, l'artwork dell'album che uscirà, i disegni sono stati fatti da Stefano, il nostro percussionista. Ah, però, che abbiamo conosciuto l'altra volta. Polistrumentista. Sì, lui è una specie di fa tutto lui? Di genio. Sì, dipinge, sì, anche, sì, fa il falegname. Cioè, no, lui in realtà si definisce un falegname. Tra l'altro, se sapesse che stiamo parlando di lui qui, ci odierebbe a morte. Perché c'è, però sono belli i suoi disegni. C'è una persona che detesta essere al centro dell'attenzione, per questo ne parlerò approfonditamente, così che lui poi ascoltando il podcast. Detto ciò, lui si definisce un falegname, però in realtà è una specie di artista poliedrico. Cioè, dai, allora più un artigiano, diciamo, perché produce. Sì, forse gli si addice di più. Forse come, più artigiano. Comunque di tipo creativo, sì, sì, come... estremamente. Sì. Fate conto che l'ultimo ricordo che ho di lui ieri sera è lui che si arrampica su un faro. Quindi, cioè, quindi è anche una persona, un personaggio abbastanza. Vabbè. E questi disegni che ci sono, che io ho utilizzato sia per fare i vari volantini piuttosto che per la copertina, sì, del, sì, disco che esce domani, sono degli acquarelli che lui ha realizzato per il disco. È bella, bella questa Silvia cosa. Ha fotografato e ha digitalizzato per poter. E anche qui non pagate il diritto d'autore. Ma noi, guarda, dai, no, sto scherzando. Noi, no, noi, sono belli, belli, belli. Sì, no, ma noi non è un'amicizia che qui lo dico, qui me lo rivendico. Noi con la SIAE, proprio la SIAE non ci deve rompere. Beh sì, con Bad Cup infatti, cioè, mi sembra che sia fuori dalla SIAE. Scusate il rustico, ma... No, vai, no, tranquillo. No. Ah, ok. Sei, anzi, solo tu che sei taccagno. Io? Sì, Spiro Orcio. De che? Era una battuta, Tony. Non la capirò mai sta ragazza. Va bene, dai, lasciamo spazio allora alla musica, ascoltiamo La Caccia Selvaggia. La Caccia Selvaggia. Thank you. sì, e se tu canticchi sopra ti, sei... ti facevamo i segni però. Sì, dai. Vabbè, te, vuol dire che lo senti tu. Sì, lo senti tu. Questo qua. Meglio, è una bella cosa questa. Pure io cantavo l'altra volta, però vabbè. Io comunque, da che siamo qui, vivo col terrore che il microfono sia aperto mentre... No, allora, dopo te lo spiego. quando tu fai tipo così... Quando mi sbraccio vuol dire che c'è qualcosa di strano. Vabbè, è un pezzo con due ritmi diversi, giusto? Sì, quello abbiamo sentito. C'è un cambio di ritmo. È un po' pensato per, diciamo, dare l'impressione che questa cosa passi e alla fine del pezzo tu dica: ma cosa cacchio è successo? Perché questo è un po' il modo in cui passava questa folla di esseri, no? Ultraterreni. Mm-hmm. Quindi ti lascia un attimo così, no? A bocca aperta, una cosa che può durare un secondo come un anno, non te ne rendi neanche conto e dici: ok, è successo questo? Boh, forse sì, non lo so. E questa era un po' l'impressione che voleva andare. Ok. Ora c'è Il fiume scorre. Sì. Volevo chiedervi una cosa. Sì, sì. La vostra band, praticamente abbiamo sentito alla voce la Silvia, sì, giusto? Sì. E io. Anche... sì. E poi... Allora, c'è anche il flauto. Sì, c'è Alessandra, che lei è una... Lei è un insegnante di flauto traverso, e anche lei è un elemento fondamentale per noi. Mm-hmm. Anche perché molto spesso le parti più armoniose sono, cioè, nonostante comunque sia io a scriverle, poi le registra lei, cioè nel disco le ha registrate lei, fatta eccezione per due brani che ho suonato io il flauto dolce, ma si sente comunque la differenza, perché il flauto dolce è molto più rude, no? Sì. Il flauto traverso è un po' più forte, il flauto dolce del flauto traverso, che è un po' più delicato. Esatto, più esatto. Morbido, più... E poi c'è Stefano, il ragazzo di cui parlavamo prima, che lui è un po' versatile, cioè lui va da seconda... No, in realtà mandolinista charanghista, cioè quindi strumenti a corde, fino ad arrivare alla parte di ritmo. C'è anche da dire che comunque Silvia, soprattutto in questi ultimi pezzi, sì, oltre che cantare, fa anche delle parti ritmiche con... Mm. Sì. Quindi in realtà diciamo che... E tu sei sempre alla chitarra. Chitarra, eccetera. Cioè... Sì. Ma ce li scambiamo un po' gli strumenti, anche perché comunque alla fine, soprattutto in questo disco, i pezzi sono abbastanza variegati. È bello comunque, sì, bello avere comunque una, sì, è diciamo, più, è anche più uno divertente, scambio anche di... più divertente. Sì, vero. Sì. Comunque, stavi parlando del pezzo? Sì, io ho scritto questa poesia, o chissà come possiamo definirla, immaginandomi una nascita nella natura. Ho provato a immaginare un mondo incontaminato dove vi era solo natura e dove gli esseri umani erano parte della natura. Mm. E una nascita. E la cosa curiosa che ho notato successivamente è che provando a descrivere una cosa del genere esce fuori un racconto che può essere simile a quello dei miti di creazione. Ovvero la luce, l'acqua, gli elementi, le prime impressioni che uno ha uscito dal grembo. E è curioso immaginare, sì, che comunque quelli che appunto leggiamo come miti di creazioni in realtà magari possono essere semplicemente queste impressioni. Semplicemente, è comunque straordinario. Vero, sì, ogni cosa che succede... Poi sono, diciamo, anche cose che sono forse proprio dentro, e uno, proprio come forse è accaduto a lei scrivendo, ti rendi conto che sta succedendo, cioè che sono impressioni che tu hai dentro, cioè, ed è una cosa bella. Comunque, Il fiume scorre, lasciamo parlare la canzone. No, mi piace che vi trovate come a casa, ormai tu ti trovi come a casa, no? Perché sembra che stia chiacchierando. Sì. Beh, è una cosa bella anche infatti, questa. Infatti, sì, no, siamo qui tranquillo. Fantastico. Meglio. Andiamo ad ascoltare allora Il fiume scorre. Sì. Mm-hmm. trovava lì vicino, è morta chiunque interrompa il suo cammino. Ma la volpe che viveva in quei campi pensò di battersi contro gli uomini arroganti. Corse giù nei prati verso i cavalieri, tra i fiori profumati prese a mordere i loro destrieri. Veloni tutti loro che scapparono impauriti per dire al loro signor da chi furono inseguiti. La grande volpe mai ebbe paura, solo un poco dalla bocca il suo furor le faceva scottare il fuoco. Per mesi si batte contro quei sboscatori, libertà o morte contro tutti i signori. Questo era La Volpe d'Oro e su questo brano ci sarebbero un sacco di cose da dire. Come sì, mai è... il titolo La Volpe d'Oro? La Volpe d'Oro è perché fa parte di questa leggenda medievale. Un castello, Castello Strozzavolpe, in provincia di Siena, della prima metà dell'undicesimo secolo, che la leggenda vuole che, insomma, il signore che voleva costruirlo lì ha trovato un po' di problemi perché c'era questa volpe che abitava lì e non voleva assolutamente che venisse costruito e ha dato del filo da torcere, si dice che sputasse fuoco questa volpe. E quando lui, in ogni caso, l'ha strozzata, poi il suo indovino, quando lui le ha portato la volpe, le ha detto che poteva essere costruito il castello, ma la volpe doveva rimanere intatta. E allora lui l'ha ricoperta d'oro e si dice che si possa avvistare. Questo, riportato al giorno d'oggi, avviene ancora, che non si ha rispetto proprio dell'ambiente in cui si va a edificare. e oltre che dell'ambiente anche delle persone stesse che abitano lì, che magari si ritrovano un prefabbricato dall'oggi al domani e non si chiede assolutamente il permesso. Per esempio questo sta avvenendo in montagna moltissimo per lo sfruttamento dei fiumi per l'energia idroelettrica, che uno dice ok, energia pulita, però ci sono altri danni che fa, perché per esempio sono migliaia queste centrali idroelettriche, che sono alcune in fase di costruzione, altri progetti che devono approvare, che hanno anche meno di un megawatt di potenza. Questo vuol dire che infatti vengono chiamate mini idroelettriche, perché la quantità di energia che producono è veramente poca. Però le costruzioni in realtà vanno proprio a modificare l'ambiente, a compromettere i fiumi e i microrganismi che ci abitano. È un disastro ambientale vero e proprio. E perché sta avvenendo tutto questo? Perché l'Unione Europea ha detto agli stati che devono investire sulle energie pulite per abbassare le emissioni di CO2. Quindi ci sono degli incentivi per costruire queste centrali, e quindi chi le vuole costruire, un imprenditore le può costruire praticamente a costo zero e guadagnarci su molto. Però non viene fatto nessun tipo di valutazione dei danni ambientali, viene costruito. A volte queste cose poi vengono fatte da quelli che costruiscono le centrali stesse, quindi tutto un'approvazione interna. Sì, sì. E quindi, beh, per fortuna, insomma, qualcuno si sta lamentando, per esempio nelle valli che conosco io, nella Val d'Ossola, qualcuno è riuscito a impedire che venisse costruita a Craveggia. Meno male. Io consiglio di seguire Free Rivers Italia, che comunque promuove questi tipi di iniziative e racchiude insomma nel suo sito tutte le varie pratiche e proteste di questo tipo, in modo da avere un quadro generale di quello che sta succedendo. Poi qua nella nostra zona, che è la Valle Olona, invece abbiamo un problema di vecchie industrie che adesso non ci sono più, cioè le cartiere, queste cose qua, anche quello è un inquinamento che la Valle Olona in una certa maniera sembra una valle spettrale. E adesso non so se c'è dentro amianto, sì, ci mettono la pista ciclabile, sì, o quella cosa, cioè come dire, tutte queste cose per l'ambiente, però alla fine Come diceva lei, si nasconde dietro a una parvenza di azione a favore dell'ambiente, ma in realtà non è così, perché non appena uno non deve neanche indagare più di tanto, basta semplicemente spostare un po' di polvere e si rende conto subito che c'è ben altro sotto. E sostanzialmente, per tornare al discorso iniziale, con la Volpe d'Oro noi abbiamo, diciamo, cercato di riportare, che questa è una delle canzoni alle quali teniamo di più nel disco, abbiamo cercato di far notare che la Volpe d'Oro in sé per sé è una leggenda che il popolo si era probabilmente inventato e che aveva riportato a questo signore locale per dirgli di non farlo il castello lì, perché loro lì il castello non lo volevano. Quindi di conseguenza, con la mentalità dell'epoca, gli hanno detto che c'era questa volpe che sputava fuoco e tutto quanto, no? E poi quello che c'è, la leggenda, il vero e il falso, sta un po' nel mezzo. Quindi di base è curioso il fatto che anche oggi le persone che abitano in posti dove vengono fatte strutture gigantesche che possono andare dalle centrali mini idroelettriche alla TAV, per dire, no? Sì, sì. Ecco, le persone che abitano questi posti non hanno nessun diritto di parola. Cioè, se devono costruire, costruiscono. Se te ne devi andare, te ne devi andare, e fine della storia. E questo è un po' il succo, il discorso della Volpe d'Oro, che tra l'altro io vorrei dedicare al mio amico Gringo, che è lui è sempre stato, essendo il nostro vecchio inquilino, ha visto proprio nascere questa canzone e l'ha sempre portata proprio, probabilmente la sua preferita, sì, del disco, sì, ecco. Questo è quanto. Invece nella prossima canzone, che è la Suite del Bosco, si richiama il tema del bosco. Ce l'hai prima. Sì, sì, questa canzone invece è un... dopo questo tema estremamente sentito, la Suite del Bosco riporta un pochettino a, paradossalmente, una pace. Alle cioè, fa senso, una fiaba. La pace dei sensi, sì, la proprio. La pace che si dovrebbe ottenere stando proprio a contatto con la natura. E difatti questa canzone nasce nel bosco. C'è semplicemente la mia chitarra che fa delle piccole improvvisazioni nel bosco, e la cosa che mi ha colpito è stato il fatto che mentre registravo, infatti la qualità è un po' più bassa rispetto alle altre, ma abbiamo preferito lasciarla più sincera, più naturale possibile, sì, cioè come è venuta. Il bosco? Qual è il bosco? Il bosco è il bosco del paese dove noi viviamo, che si chiama Toceno. Ci sono, noi siamo praticamente, viviamo in montagna, quindi siamo circondati dai boschi, sì. E in questo bosco chiaramente a un certo punto mi sembrava quasi che gli uccelli che c'erano sugli alberi, beh, chiaramente è tutta la mia fantasia, però mi sembrava che anche loro duettassero in questa canzone. Ho deciso di sentivi in così. Sintonia con... estremamente sì. In sintonia, sì. La Suite del Bosco. Andiamo ad ascoltarlo. Thank you. Gruppo Solitario dal 1979 ti regala emozioni rock. Pubblicizza la tua attività e cresci insieme a noi. Il nostro consulente è a tua disposizione al 349-77-31-166 oppure scrivi a commerciale@radiolupo.it. La tua pubblicità su Radio Lupo Solitario. Basta! Non ne posso più! Ehi, amore, che succede? Giornata storta? Peggio! Stasera siamo invitati a cena da Luciana e non ho nulla da mettere! Con la mia taglia, poi, non si trova granché. Soliti colori, soliti tagli. Sono disperata! Quasi quasi chiamo e dico che non andiamo. Ma cosa dici? Andiamo da Matilda e Camillo e il problema è risolto! Matilda e Camillo, specializzati nel vestire uomini e donne dalle taglie comode. A Travedona, Monate e Varese, in via Maretti 96. Infoline 0332 77 34 75 e su matildaecamillo.com. Matilda e Camillo taglie comode, non per sembrare più magra, ma vestiti per sentirti più bella. Tutti i mercoledì Matilda e Camillo saranno in diretta su Radio Lupo Solitario dalle 20 alle 21. È aperto il primo Original Amsterdam Cannabis Store in esclusiva a Gallarate. Prodotti alimentari, bibite, gadget, abbigliamento e souvenir. Tutti prodotti originali provenienti dalla mitica Amsterdam. Ci trovi in via Dominzoni 14 a Gallarate. Mi raccomando, cerca la nostra pagina su Facebook o visita il sito www.cannabisstoreamsterdam. Ah, non dimenticare, Fly Down. Thank you. un pezzo bello movimentato. Lo dicevamo prima, infatti volevo ricollegarmi al volo sul discorso che facevamo all'inizio. Questa è la canzone, è una canzone del 1300. Ah. E, diciamo, è una specie di proto-proto-punk del 1300, in quanto noi l'abbiamo proprio presa così com'è e l'abbiamo rifatta, non è, cioè, non ci abbiamo messo mano. È cantata in occitano, che è una lingua... infatti volevo chiederti la esatto, lingua... Esatto, sì, l'occitano si parla ancora un po' in Piemonte, nelle zone della Francia. E sostanzialmente questa canzone è incredibile, secondo me, perché è una canzone di protesta del 1300, popolare, una canzone popolare, dove viene detto «Hai visto lo lop, lo Reinhard, la lepre? Hai visto lo lop, lo Reinhard, danzar? Tutti e tre fasiallo torn de laure, fasiallo torn de buison foyat?» E praticamente dice: ho visto la volpe, il lupo e la lepre, uh-huh, che giravano e ballavano intorno a un albero. Gli esseri umani si lavorano tutto l'anno per poi vedere la volpe, il lupo e la lepre danzare intorno all'albero, che ci prendono per il culo mentre noi lavoriamo senza guadagnare nulla. La volpe, la lepre e il lupo sono lo Stato, il signore locale e la Chiesa. E quindi, non è cambiata la situazione. E non è cambiata, non è cambiata. Quindi questa cosa per noi è stata folgorante. Cioè, nel senso, prendere una canzone di N anni fa, esatto, riportarla oggi, e ok, se non fosse per il fatto che è in occitano, fosse stata cantata in italiano, sarebbe perfetta. Cioè, non è cambiato assolutamente. No, no, invece non è male anche il fatto che è in occitano, anche perché sì, non conoscevo questa. Ma noi non abbiamo deciso di non metterci mano per il fatto che secondo noi è bellissima così. Cioè... Tanto avete scatenato l'ira funesta di Tony e le, e le sue ricerche con le battaglie ambientali. Questo è il nostro scopo questo principale. Questo è lo spirito. Sì. No, volevi dire qualcosa? Sì, forse per me si fermerei tutto al Medioevo, ma veramente. Ma cioè... guarda. Trovi nuovo, d'accordo. Ho un nuovo amico. Vero, vero. Beh, ma sui capelli bianchi, dunque... Tu sei più medievale. Sì, però diamo tempo al tempo. Dai, piano piano. Sì. Il pezzo dopo è anche quello scritto in qualche lingua particolare, no, leggendo il titolo, no? Antico passo, no. Questo qui invece è un pezzo... No. È quello sopra. Ah, mondo. Ah, scusami, il computer mi ha fregato. Vai tranquillo, non c'è problema. Vero. Guarda, sono d'accordo con te. Ste tecnologie rovinano tutto. Devo dire che abbiamo superato un'ora indenni, quindi dai, ci può anche stare. Sì, dai, una piccola... Beh, di solito questo è l'orario in cui si inizia a sbiellare. No, oggi siamo seri. Oggi stiamo facendo una puntata seria, quindi continuiamo su questo andazzo. Oggi aspettiamo tempo al tempo. Vabbè, alla stagione che il mondo foglie e fiora, è una poetessa del 1200, ha scritto questa poesia contro i matrimoni combinati. E lei è compiuta donzella, si faceva chiamare, un nome d'arte. Sì. E sono rinvenute altre due sue poesie, una delle quali è una tenzone con un altro poeta o trovatore, quindi una specie di sfida lirica, sfida come potrebbe essere una battaglia rap oggi, sì, diciamo. Sì. Ma voi, una domanda, voi avete visitato questi luoghi, appunto, dove magari abitava questa poetessa? Vabbè, il castello lì della Volpe d'Oro. Il castello di Strozzavolpe è praticamente difficilissimo da visitare, perché è uno di quei castelli che devi fare la prenotazione, tutte queste cose. Mentre invece riguardo a Compiuta Donzella c'è una via dedicata a lei nel suo paese natale. Non mi ricordo qual è. Però essendo considerato in che Toscana. Noi... nonostante ora ci vantiamo, viviamo comunque in un mondo che è ancora fin troppo patriarcale, quindi cioè su poeti maschi uomini, si sa tutto, sì. Ma il fatto che lei fosse la prima poetessa a scrivere in volgare, quindi basta latino, io sono una donna del popolo, scrivo in volgare, non si sa poco niente. È così patriarcale che addirittura c'è stato uno studioso di cui non mi ricordo neanche il nome, non voglio ricordare, che ha buttato in giro questa teoria per la quale Compiuta Donzella in realtà fosse un uomo. Perché era troppo bello per essere fatto. Aveva deciso di... Cioè, è assurdo, anche perché comunque purtroppo non credo che avesse mai voluto un uomo usare uno pseudonimo femminile. No, e poi questo no, non poi fa altro che screditare. Figuriamoci. Purtroppo bisogna dire... E non fa altro che screditare, insomma, questa Compiuta Donzella che invece ha scritto questa cosa così sentita, palesemente femminile. Va bene, femminile. Va bene. Allora andiamo a ascoltare la prima poetessa pop, possiamo definirla. Sì, alla stagione che il mondo foglie fiora. Ciao. Beh, anche questa aveva un bel ritmo. Sì, sì, anche questa qui è divisa proprio in due parti. La parte in cui lei si lamenta e la parte in cui proprio c'è questo sfogo finale strumentale che è proprio lei. È tipo vaffanculo. Sì, cioè esatto. Ecco, esatto. Hai capito tu? Sì, sì, sì, ti è arrivato lo spirito in pieno. Poi insomma una canzone primaverile perché siamo nella stagione che il mondo foglia e fiora. E nonostante questo lei è così abbattuta che nonostante tutti si amano e la natura stessa ritorna in vita, lei non la tocca minimamente. Ma rimenti e pianti. Esatto, ed è dispiaciuta. Chissà come, se fosse stata una donna bella. Non lo so. Fatto sta che comunque in ogni caso si è ritrovata in questa situazione, quindi... Lei è di famiglia nobile, si sa qualcosa? Non lo so, però considera che in fin dei conti già il fatto che le sue cose ci siano arrivate vuol dire che magari non era una, per dire, una duchessa, però comunque una benestante, ecco. Sì, sì, sì. Che sapere già scrivere. Sì, sì, sì. Sì, sì, sicuramente quello denota un alto livello di istruzione. Più che altro perché sapeva fare queste cose. Cioè, queste cose solitamente arrivavano dalle donne che studiavano all'interno dei monasteri. Però il fatto che lei parli di temi sempre molto d'amore piuttosto che molto di libertà. No, un altro dei suoi scritti parla di Dio e del fatto che lei voglia farsi monaca. Quindi, quindi aveva questo desiderio. E anche lì suo padre non voleva. Che era un mostro questo uomo, cioè bisognerebbe indagare anche su di lui. Comunque, perché la voleva sposata a tutti i costi, capito, voleva sposata a tutti i costi e pare che poi davvero da qualche documento, qualche formazione così risulti che effettivamente, perché non è più chiamata compiuta donzella ma compiuta, adesso non mi ricordo, comunque si intuisce che non è più signorina. Non è più donzella. Quindi in qualche modo ci è riuscito il padre a combinargli però qualcosa. La cosa positiva, voglio trovare un lato positivo, ad oggi sono le sue poesie che sono arrivate del padre non si sa niente, quindi tutto sommato il tempo le ha dato la vittoria, dai. Io penso anche cattivo che magari sia stato lo stesso padre a sposare. Se entriamo nello scabroso più... Beh, in Egitto si usava questa cosa di sposarsi con i propri figli, no? Sì, beh, però e tanto dunque non penso che... Ma magari... No, ma nel Medioevo ce n'erano di cose scabrose da questo infatti, punto di vista. Questo magari... Beh sì, pensa che anche semplicemente l'anno scorso un austriaco si è fatto tutte le figlie, ha fatto altre famiglie nella sua cantina, è vero. Quindi il Medioevo, insomma, bisogna un attimino smettere di bisfrattarlo così. Poi io ora passerei ad Antico Passo. Se... Subito. Antico Passo in realtà è una canzone che abbiamo composto semplicemente basandoci sulle strutture ritmiche di quelle che erano le danze di corte. Difatti dura molto poco e ha una struttura estremamente semplice. Il ritmo che abbiamo preso è proprio quello che utilizzavano per fare questi balli, in quanto nelle feste c'erano dei balli combinati che venivano spesso utilizzati anche per scambiarsi informazioni tra amanti. E Antico I pizzini. Passo, sì, esatto. E Antico Passo vuole un po' ricordare questi momenti, ecco. Ok, allora andiamo a ascoltarlo. Vedo che dura anche abbastanza breve, quindi ci risentiamo tra pochissimo. Un pezzo punk. Sì. Thank you. qua c'era il pogo, sentire poi Tony. Sì. Ma adesso mi tiri giù tu il volume del microfono. Perché? Perché ho visto che faceva così e quindi... Quindi adesso non me la devo prendere con te, ma con... No, è lui quando stasera... mi silenziate. Ma sono il magister. Perché voi dovete sapere che ogni tanto loro mi silenziano il microfono, capito? Sì, sì, proprio non mi fanno più parlare. Siamo medioevali. C'è una censura qui a Radio Lupo. Stiamo abusando del termine. Poi riconfondiamo le idee. E la nave dei folli, proprio a proposito del censurare, del segregare, cioè, mi posso allacciare così. E la mole di informazioni in merito è veramente abbastanza... enorme da mettere in ordine. Adesso proverò a fare un riassunto. Di base, la follia nel Medioevo era comunque parte integrante della vita. Follia e ragione, come può esistere l'una senza l'altra, e entrambe si completano. E così era, ma i folli... sono iniziati ad essere definiti folli anche le persone malate, gli appestati, per esempio, perché di base era comodo prendere una persona che aveva un comportamento ritenuto disturbante per la morale scusate, ma il nostro grande capo. Cennello, il capo della piacere. Dicevo, quindi era facile dire tu hai un comportamento disturbante secondo la morale, quindi ti mettiamo su una nave, di base, dove mettevano anche le persone malate che potevano infettare gli altri. Quindi follia inizia ad essere, diciamo, anche tutti, malattia. Tutti quelli che non corrispondevano all'ideologia di persona sana. Cioè, sì, non esisteva tanto sano e insano, ma comunque... Fa comodo dire folle quando uno ha un comportamento che può essere magari anche semplicemente provocatorio o comunque che tenta di rompere un po' gli schemi che uno ha in testa. Sì. E quindi questa follia diventa anche malattia in quel momento lì, quando appunto si chiudono successivamente dopo la nave dei folli, ovvero queste persone che venivano date in affidamento ai marinai e vagavano, solcavano i mari, poi magari tornavano, approdavano e li rispedivano via perché nessuno li voleva, di base davano fastidio, e da lì poi sono diventati gli ospedali, le navi, perché si iniziavano a chiudere negli ospedali sia i malati che appunto chi dava fastidio per la sua condotta. Bastava non vederli, che fossero su una nave o... Esatto, segregare, oscurare determinati comportamenti. La nave dei folli poi nel Rinascimento, diciamo, inizia ad avere, ad entrare proprio come figura simbolica molto anche nell'arte, ci sono molti quadri scritti, perché comunque questa pratica iniziava forse, credo io, ad essere un attimino messa in discussione, e infatti viene riportata nella follia, a partire dall'elogio della follia di Erasmo, questa capacità della follia anche di essere saggia, di portare dei messaggi, e quindi interrogare la follia, ma interrogare anche la ragione, chiederci ma quali sono queste convinzioni. E la nave oggi che cos'è? È un edificio? La nave, questa nave dei folli, cos'è diventata? E quali persone, quali comportamenti sono i folli? Cosa definiamo follia? Forse non è più un edificio, ma è un psicofarmaco oggi. Sono queste cose che oscurano comunque i comportamenti. Ho trovato una citazione sulla follia, che dice: il genio si muove nella follia, nel senso che si tiene a galla laddove il demente annega. E quindi si ricollega al discorso della nave dei folli. Eh sì, perché poi acqua e follia hanno questo legame da sempre. Va bene, dai, andiamo ad ascoltare allora la nave dei folli. Sì. Questa era la nave dei folli, penultimo pezzo. Ora con l'ultimo pezzo noi vi salutiamo nei murmurmori, poi lasciamo i microfoni ai padroni di casa. Ma starete qua con noi? O? Li vedo un po' cotti. Sì, infatti. Stamattina eravamo giù, non ci siamo ancora fermati né... Non abbiamo capito dove siamo. Cioè, esatto, stiamo vivendo, dovete ancora orientarvi. In un wolf trip, diciamo. Comunque, in ogni caso. Il viaggio caso, del lupo. Qualcuno deve andare. In ogni caso, comunque, ora vorrei semplicemente parlare dell'ultimo pezzo velocemente. Si chiama Danza Vermiglia. E questo è un brano che noi abbiamo scritto basandoci su quelle che erano un tempo le canzoni che venivano utilizzate per dare sfogo alle persone. C'era proprio questa tradizione che in realtà è resistita per tanto tempo, soprattutto nel sud Italia, come potevano essere le tarantolate che si sfogavano con la musica che continuava incessante, sempre più veloce, e queste donne che spesso e volentieri avevano solamente bisogno di sfogare proprio la loro rabbia repressa, piuttosto che depressione, tutto quello che vuoi, attraverso la musica, quindi una cosa estremamente sana, si sfogavano e avevano proprio la possibilità di fare qualunque cosa, saltare, ballare, spogliarsi per tutto il tempo che volevano. Esisteva nel Medioevo una cosa del genere ed è un brano estremamente famoso che si chiama Sciarazzule Marazzule, l'ha ripreso Branduardi, l'hanno rifatto in mille versioni, ed è un brano che tra l'altro io consiglio perché rimane una piccola meraviglia italiana di quel periodo. La Danza Vermiglia non è una canzone antica, però è pensata per avere la stessa funzione, cioè è un ritmo che aumenta fino ad arrivare a un'esplosione finale, ed è un po' l'idea con la quale volevamo chiudere il disco. Beh, comunque tutti siamo un po' così, alla fine accumuliamo, alla fine esplodiamo. Sì. Quindi, se si ha modo però di dare sfogo a questa cosa, come potrebbe essere attraverso la musica, si evita di finire sulla nave dei folli. e quindi di conseguenza bisognerebbe proprio, secondo me, tornare a fare queste cose. Che poi in realtà è quello che uno fa in maniera un po' malsana e distorta in discoteca, sostanzialmente. Solamente che lì poi, sai, vedi che sei del Medioevo, perché ormai le discoteche non esistono più. Ah, beh, quasi. Io non lo so. Ormai non ho una vita. Vabbè, ma Tony, noi abbiamo anche una certa età, magari i giovani. Adesso non so l'età loro che voi, perché voi non sono un. Voi avete 24-25 anni, no? Quanti anni avete? Ti ringrazio, io ne ho 30. Lei invece no, lei hai preso, sì. E ne ho 23. E niente, la Danza Vermiglia, e con questo io, Mirko, Silvia, Murmuri, vi salutiamo, vi ringraziamo. Sì. Stanotte il disco uscirà, domani spediremo i pre-order, e ne approfitto per ringraziare tutti quelli che l'hanno comprato, perché ci hanno dato un aiuto incredibile. E niente, buon ascolto e grazie. Ma le ultime domande, voi avete qualcosa in programma per venirvi a ascoltare? Sì. Allora, il prossimo concerto che faremo sarà a Bresso il 14 aprile. E sarà all'interno di un piccolo festival al Blue Rose Saloon, sì. Successivamente avremo il 28 aprile al Teatro Garabato a Torino. E poi a maggio, il 19 di maggio, sì, al Rifugio Piancavallone, che è sempre all'interno del circuito della Val Grande, che è il Parco Nazionale della Val Grande, e lì sarà un concerto che noi faremo al tramonto, cioè inizieremo a suonare alle 7:30 e poi con il cambio della luce, insomma sarà probabilmente molto molto particolare. Bello. Prossimo appuntamento comunque è il 14 aprile. E voi siete sui social? Sì, perché in fin dei conti, se se ne può fare un utilizzo sano utile, dai. Sì, sì. E quindi vabbè, su Facebook Murmuri. Vedo la tua, sì, il tuo entusiasmo, però sì, dai, ci vuole. Fate quello che volete, se volete andarci andate. e poi più che altro su Bandcamp, che è il posto dove noi mettiamo la nostra musica, cioè nel senso, comprando il disco da lì sono io che lo prendo, lo metto nella busta e ve lo mando. I formati sono CD, no? CD? Sì, classico CD. Quello, l'edizione passata, che tra l'altro è nella sua macchina, e avevano creato anche proprio un package molto particolare. Che bello, veramente bello. Sia il disco

aperto il primo Original Amsterdam Cannabis Store in esclusiva a Gallarate. Prodotti alimentari, bibite, gadget, abbigliamento e souvenir. Tutti prodotti originali provenienti dalla mitica Amsterdam. Ci trovi in via Dominzoni 14 a Gallarate. Mi raccomando, cerca la nostra pagina su Facebook o visita il sito www.cannabisstoreamsterdam. Ah, non dimenticare, fly down. Road for we name them a call, but them one for this basement jacks after all. When we check it out, them brain it small. 7 times rise, 7 times we fall. Double pop us, I mash up the dance hall. Crowd up on the receiving end, them a ball. Oh, them a ball for basement name, them a call to place with music. They wanna hear. The people them a beg me group of DJ for more. They gotta love the way we play the hardcore. Them a jump and shout like a gold up score. Watch out, them bubbling on the dance floor. The vibes them hot and the music wicked. We pump it nice up the life for your lips. Jump and shout and tell them be positive. Live the life you love, love the life you live. Some of them a bad man, but them a big beauty. But if it pop off, them go on nobody Philip. If them a bad man, then nobody should get all know them. They them yard with them Bible again. But some a fool, never know the rule. They never did go to basement Jack's hole. But we will be guilty for a shilling. Make sure they not the next victim in a killing. Because we are the knowledge. We got a good college. Yeah, plus in a history. I know me, can I miss our love music. That's why we bust up the garage. If a guy want to see him dead. Some a fool, never know the rule. They never did go to basement Jack's school. But if we live it, if they be a shilling, make sure if not the next victim in a killing. Can we have the knowledge? We got a good quality, a close in a history. I know me, economics, I love music. That's why we both up the garage if a guy want to be. They never did go to basement Jack school. But it will if it is, then for your shilling. Make sure it's not the next victim in a killing. Can we have the knowledge? We got a good college, A plus in a history. I know me, economics, and we love music. That's why we bust up the garage if a guy wants to be in. Salutiamo ancora i nostri ospiti Murmur Mori. Sì, noi infatti stavamo già organizzando. Se ne vanno a dormire finalmente, perché mi hanno detto che è stata una giornata un po' lunga per loro, dai. Infatti si vedeva che comunque erano anche un po' provati. Sicuramente sempre più attivi di me. Sì, vabbè, Tony, lo sappiamo che ormai... Cazzo, si è rimasti in tre. Si è rimasti in tre. Il più scemo eri te. Abbiamo 20 minuti di, diciamo... No, mi sono difeso bene stasera, dai. No, dai, sì, fatto, ma io te la devo ancora far pagare, che mi sostituisci pure a me nella mia macchina. E quindi... Nella tua macchina. Perché... No, si parlava del CD che cambia. Ah. Sostituiamo il CD, allora lui ha detto, sostituiamo anche lei. Vabbè. Sì, intanto. Continuando invece con la musica, visto che stasera il Wolf Trips è stato piccolino, per il nostro genere musicale è stato un po' più ampio, stato diciamo. Un beat. Però è stato bello, sì, no? Sì, veramente, sì. Mi piace particolare. Il loro genere. È un genere un po'. Ma sono anche simpatici, perché io sinceramente pensavo di ragazzi molto seri, cioè con questa musica impegnata, perché comunque c'è vero, molto impegno. È molto studiata, molto e invece ricercata. Sono proprio da... Sì, alla mano, veramente. Sì, sì, veramente simpatici. Vero. Beh, allora io direi che continuiamo sull'andazzo del genere. Cioè? Visto che prima ho messo un brano un po' più... breakbeat. Breakbeat. Breakbeat. Non mi è mai piaciuto quel pezzo. Stand Warrow. Mi dà l'ansia quel pezzo che hai messo prima. Ma perché probabilmente è proprio è la sincope. Cioè il breakbeat è basato sulla sincope. Quindi potrebbe dare ansia. È un effetto collaterale. Volevo chiedere una domanda. La mezzatonica? Adesso. Sta arrivando. Ah, ok. Io infatti stavo quei dicendo. Momenti. Guarda. Infatti dicevo, per ricollegarci un po' anche alla musica che abbiamo ascoltato oggi, andremo ad ascoltare un brano della mezzatonica. Vai, Tony. Bene. Allora... Siccome la scelta era basata anche sui nostri ospiti, penso di fargliela anche sentire, però sono andati via. E il titolo è Fata Morgana, dunque già si parla di boschi. Il gruppo è un gruppo storico della musica ambient, lui sono gli Enigma, tu li conosci Enigma? No. No, ma la canzone più famosa sicuramente l'avrai sentita. Sì, sì, sì, sì, è un gruppo famoso. Sì, sì, dagli anni 90 Vabbè, in detto poi. Così su due piedi non me la ricordo. Vabbè. Hanno cambiato anche molte volte il genere musicale e nel 2008 hanno fatto questa canzone che si chiama Fata Morgana e l'album è Seven Lies, è un po' più elettronico, ma loro hanno iniziato anche... Lui è Michael Cretu, è un produttore rumeno di origine rumena, però è tedesco. È famoso negli anni 80 per una famosa canzone che si chiamava Samurai, Samurai. E vabbè, poi lui lo saprà sicuramente Domenico chi è. Anche sua moglie è famosa. Ah sì, la moglie di Domenico, veramente. Sì. questa è bella, questa veramente ti do 10 lode per la battuta. Che mica pizza e fichi. No, vabbè. Dopo ce la rubano il lunedì. Ok, anche magari. No, vabbè. E sua moglie è una famosa cantante anni 80. Non lo sapevo. Sì, Sandra si chiama lei. Maria Maddalena, non so se te la ricordi, è una canzone fatta dal duo. Vabbè, quindi. Questo pezzo si chiama Fata Morgana, è anche un pezzo abbastanza pelino elettronico, ma di molto atmosfera, ecco. Andiamo a sentirlo allora. Sì. Andiamo a ascoltarlo. Fata Morgana. Thank you. direi che è la giusta continuazione della puntata di oggi. Sì, stasera... Tra l'altro, Tony, sai cosa ho combinato stamattina? Dimmi. Che poi me ne sono accorta solamente oggi verso sera. Sì, se no non l'avresti detto. Stamattina, visto che io sono un genio creativo, questo già ride, quindi figurati. Beh, è giusto anche ridere, dai, racconta. Ho trovato sul cellulare dei video. Io praticamente non mi scaricati sono... da te. No, video che sul suo cellulare che non sa che cosa sono. Quindi uno dice, ma che è sta roba? Allora, io apro il video e ci sono io che dormo e parte la mia sveglia, capito? Quindi io mi sono autofilmata, ho fatto partire un video... schiacciando magari una mentre dormivi. Non so come ho fatto alle 6:10. Tu pensa se partiva una nota vocale. Bisogna stare attenti con i telefoni quando si dorme. Io lo terrei, io lo tengo sul comodino attaccato lontano. Che mi devo per forza alzare. Non so, né dove ero io, né dove. Cioè, io ero nel letto a dormire, come si vede dal video. Però io le ma non c'è il blocca tastiera qualcosa? Sì, ma probabilmente nel sonno l'ha utilizzato. Capito? E quella è la cosa comica. Quindi io non so assolutamente cosa ho fatto. Se arrivano messaggi, se arriva qualcosa, lasciate perdere. Non è un virus, ma diciamo che è il sonno. Più che un virus è vero. Vabbè, vero. Ti dicevo prima, Tony, che avevo preparato per questa sera una puntata basata sulla musica synth. Anni 70. Sai che stiamo facendo un po' il Wolf Trips sui generi musicali e andremo avanti così fino... ormai penso alla fine della stagione musicale nostra, no? Perché poi di generi ce ne sono. Anzi, dimmi? Di generi ce ne sono tanti. Ce ne sono talmente tanti che infatti faremo altre edizioni. No, diciamo che siamo arrivati. La settimana scorsa mi ho ascoltato il crowd rock. E collegato c'era il genere, diciamo, di synth. Nel vero senso della parola, perché proprio sulle prime sperimentazioni elettroniche. Sì. E uno dei pezzi che, diciamo, ha fatto la storia, a me è sempre piaciuto questo brano, anche perché l'avevo conosciuto in realtà, devo dirti la verità, con i remix dance commerciali. Però in realtà il pezzo originale è... Sai che non li conosco i remix. Cioè, è uscito un album di questo artista qualche anno fa, diciamo, dei pezzi dance che avevano il motivetto di questo brano. E infatti c'è introdotto proprio il brano di famoso anche il video, che con i pinguini, il video simpatico. Poi tra l'altro c'è stato un periodo che frequentavamo una radio Il Fare, la vecchia radio Il Fare, e c'era un giochino dei bambini che aveva e in continuazione passava. Che giochino era? Sai quelli lì, le giustrine dei bambini, quelli che metti le la moneta. Motorette. Ah, ho capito. Che brutta fine ha fatto. Non è proprio così il massimo da associare questa canzone. Infatti mi uscivo un po' fuori dalle orecchie. Però dai, andiamo ad ascoltarci il pezzo originale, che non mi ricordo di quanto. Che poi è diviso in varie parti. L'album, ecco. L'album ha una serie di brani che compongono un concept album. Concept album. Ah, concept. Concetto. Adesso questo qua ti posso assicurare che è originale. È del brano originale. Non dovrebbe essere live. Andiamo ad ascoltarlo. Thank you. Pezzo spettacolare. No? Sì, fatto... sì, sì, no, ma io sono... No, no, mi ricordo da bambino che sto pezzo che sembra dell'80 qualcosa. Sì, no, ma non ti piace questo brano? Sì, sì, no, no, ma... No, ma hai fatto una faccia. No, no, no, mi ricordavo i momenti che lo ascoltavo, che rimanevo sempre così in aria. Sì? Sì, sì, perché... Hai visto? Stasera ho due microfoni per me. Sì, sembra che stai facendo un'intervista, sai quelle lì, tipo... fanno le rassegna stampa. Sì, sì, c'è anche il meme con la foto. Sì? Con tutti, sì, sì, te lo metti sul profilo di Facebook. Vai, allora fammi una foto. Vabbè, la facciamo dopo, dai, la facciamo dopo. Beh, diciamo, con questa chiudiamo? Questa sì, pezzo. Sì, sì, sì, okay. Con questa chiudiamo sicuramente. Quindi anche per questa sì, puntata sì, abbiamo sì, finito. Sì, molto meno calzarona. Molto più bella, dai. Sì, è vero. Siamo... Cioè, non so gli zizi quando eravate solo voi due, ma sembra che siamo chi? Tornati. Chi? Chi? Chi? Chi? Ma no, guarda, io all'inizio Paloma. Non c'ero. Ma chi? Paloma? Paloma. una cavolata dovevamo sì, dire. No, che no, vero, vero, vero. Cioè, no, veramente. Io non abbandono so, mi dite tutto. Chi? Paloma. Abbandono tutto e vado a mangiare. Che è vero. No, dai, introduciamo l'ultimo brano della serata, che è un'altra mezza tonica. Sì, giusto così. Così. Quindi stasera proprio due pam pam. Cioè... Sì. Allora, il gruppo... Hai mangiato fagioli che le spari? No, no, ancora devo mangiare. Allora, il gruppo è Deep Forest, che è un gruppo famosissimo nella musica ambient, così, e anche Dead questo... Forester. No, Dead no. Forest. La canzone è Dead Forest. Leggi bene, leggi bene. Forest Deep Forest, Forest Dead Forest. È il nome Forest. Del gruppo. Sì, la foresta nella foresta. Sì, il gruppo è uguale, sì. Allora, il gruppo... Quanti Forest però, Forest Gump non c'è. No, è scappato. Ci siamo riusciti a rovinare una puntata. Anche, una, bella minuti, anche una bella canzone. Vabbè. Vabbè, allora, diciamo, Deep Forest. È Deep... un gruppo francese, come okay. Jimmy Jarre. Anche loro... Belle, la France. Mio la France. Chiudiamo a quest'ora con un pezzo, anche questo, strumentale. Vous voulez venir... A mangiare, dove andare? E vabbè, niente, chiudiamo. E la canzone si intitola Dead Forest, quindi foresta profonda, foresta morta. Sì, più o meno, si è detto quello, così. È quello il che senso. Triste. È così, è così. È così, così. Chiudiamo così. Yeah. check this out. Wolf Trips, I viaggi del lupo. Tony, non ti agitare molto perché è una certa età, quindi occhio. Ti piace la sigla? Vedevo che te la ballavi. Devo farne un'altra però. Mi sembra di stare in un rave. Infatti si vedeva che ballava, io avevo paura agli inizi di infarto. Perché sai, ormai è una certa. Non si può più permettere. Già di è stata una settimana di brutte notizie. Non è bello. Senso, beh, non personalmente, però di personaggi che sono andati via. Ah, già, già. Vero. Anche l'ultimo del mondo del calcio. Sì, vabbè, non è che ti ho augurato di andartene. No. Allora, ascolta. No. Adesso me ne vado a mangiare. Va bene, dai, allora niente, salutiamo. Sì. Salutiamo la Cri. Ciao. Salutiamo. Ci sentiamo settimana prossima. Tony. Ciao ragazzi. E io mi saluto sempre da solo. Ciao Domingo. Ciao. Ci sentiamo settimana prossima. Intanto salutiamo anche Sam, che sembra sempre super accaldato. Sembra che è andato. Italo è arrivato sempre puntuale. Io, Sam, ho bisogno di te, quindi devo chiederti una roba. Va bene, tanto che sì, ci si scambiano favori qua, proposte di cose. Vi saluto e ci sentiamo settimana prossima. Ciao!